Letture di Radio 24. In provincia di Firenze un imam non vuole che la figlia frequenti la scuola nei giorni in cui è previsto l'insegnamento di educazione musicale perché ritiene impuri i suoni occidentali. La ragazza rischiava di accumulare troppe assenze e allora le insegnanti hanno trovato una soluzione. Venga in classe, ma con delle cuffie che la isolino dalle prove pratiche. Mediazione culturale o calata di braghe? Cuffie sulle orecchie per non sentire la musica occidentale. È quanto accade in una scuola di Reggello, paese alle porte di Firenze, per una bambina marocchina che, secondo il padre, non può ascoltare la musica a causa della religione islamica. 2 anni fa, spiega la preside dell'istituto Vilma Natali, la bambina, che frequentava la prima media, non veniva a scuola nei giorni in cui c'era musica e aveva accumulato un numero considerevole di assenze e difficoltà in tutte le discipline. Alla fine ha dovuto ripetere l'anno. Da qui il tentativo di trovare una mediazione, pur con fatica, raggiunta ormai un anno fa. La bambina, spiega ancora la preside, frequenta le ore di musica, da cui non può essere esonerata, limitandosi alle parti di teoria e di storia della musica. Va anche lei, poi, in laboratorio con gli altri, ma indossa le cuffie, non partecipando alla parte pratica. Questa soluzione è stata accettata dalla famiglia e oggi la bambina frequenta la seconda media. Un compromesso, fa notare la preside, che sacrifica sì la parte pratica dell'istruzione musicale, ma consente alla bambina di seguire tutte le discipline. La Lega Nord Toscana ha segnalato la vicenda al ministro dell'Interno, Roberto Maroni. La vicenda, commenta Gianluca Lazzeri, consigliere regionale della Lega Nord Toscana, è grave e paradossale. Se non si vuole rispettare la legge, allora non bisogna venire nel nostro paese. Con un'interrogazione urgente al ministro dell'Istruzione, anche Francesco Rutelli chiede un intervento immediato. Ci troviamo di fronte, scrive tra l'altro Rutelli, a una equivoca interpretazione dei principi di tolleranza e dei valori di accoglienza. Durissima Suad Sbai, deputata del PDL. I dirigenti della scuola dovevano chiamare subito l'assistente sociale e non tollerare una situazione del genere. Se fosse accaduto a un bimbo italiano, non si sarebbero comportati così. Siccome si tratta di stranieri, hanno cercato di tollerare l'episodio. La musica, sottolinea la parlamentare, è parte integrante della cultura marocchina. Si tratta ancora una volta di un intollerabile atto, figlio di un'ignoranza che genera mostri e che scaturisce da una visione estremistica. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Bimba islamica con le cuffie copri musica, pubblicato su Avvenire di venerdì 10 dicembre. Un fotografo è involontariamente coinvolto nell'ottobre del 2008 in una brutta storia di traffico internazionale di opere d'arte. Indagato dalla Procura di Roma, riesce però a chiarire la propria posizione già dal mese successivo. Tutto risolto? No, perché a 2 anni di distanza il fotografo risulta ancora indagato. Va assolto adesso, ma non si può. Manca la carta per farlo. Eppure sono già 2 anni che un fotografo d'arte ha chiarito l'equivoco che l'aveva fatto indagare. E persino la Procura di Roma concorda sul fatto che il fotografo dovrebbe essere separato dai 13 faldoni di atti sugli altri coindagati e subito archiviato. Ma il magistrato, con coraggiosa trasparenza, mette per iscritto di non poterlo fare. In cancelleria non c'è carta sufficiente per fare la necessaria copia dei 13 faldoni. La sequela di sfortunate coincidenze comincia per il fotografo d'arte 26 mesi fa, quando il 28 ottobre 2008 gli investigatori del reparto tutela del patrimonio culturale, in un'indagine avviata nel 2006 su un traffico internazionale di opere d'arte, ne perquisiscono lo studio professionale. Il ritrovamento di foto di alcune opere al centro delle indagini fa sì che le foto gli vengano sequestrate e che egli venga inizialmente indagato per l'ipotesi di un suo contributo all'illecita esportazione di opere d'arte, in concorso con il collezionista principale sospettato. Ci può stare come spunto di indagine, ma già nel primo interrogatorio il fotografo rende esaurientemente conto della ragione per cui era andato in Svizzera. Spiega di essere stato invitato a Chiasso a fotografare alcuni importanti quadri su incarico di un mercante d'arte che fino a quel momento aveva fama di collezionista stimato e apprezzato, e a riprova di quanto affermato mette a disposizione degli inquirenti anche tutto il resto del proprio archivio. Già al 22 dicembre 2008, insomma, è tutto chiarito. al punto che l'autorità giudiziaria dispone la restituzione al fotografo del materiale sequestratogli nella perquisizione di ottobre. Per questo, il 22 gennaio 2009, i suoi difensori avanzano alla procura un'istanza affinché separi la posizione del fotografo da quella degli altri coindagati e ne chieda subito l'archiviazione al GIP. Solo che per tutto il 2009 e l'intero 2010 non succede niente. Non perché ci sia qualche ulteriore indagine da svolgere sul fotografo, ma prima perché l'iniziale PM viene trasferito ad altra sede, poi perché il fascicolo sconta un periodo di transizione sul tavolo di un secondo PM e infine perché approda nell'ufficio di un terzo PM, al quale gli avvocati del fotografo il 22 novembre 2010, cioè quasi 2 anni dopo l'interrogatorio risolutivo, tornano sommessamente a segnalare l'opportunità di richiedere, previo stralcio della relativa posizione, l'archiviazione del procedimento a carico del nostro assistito. E qui arriva dalla Procura di Roma una risposta che, per quanto possa turbare chi abbia poca dimestichezza con la realtà quotidiana degli uffici giudiziari, fa onore al magistrato che ha la trasparenza e il coraggio di dichiarare per iscritto i criteri che la ispirano. Letta l'istanza dei difensori del fotografo d'arte, infatti, il terzo PM di questo procedimento premette che l'archiviazione della sua posizione implica l'effettuazione di uno stralcio, che però a sua volta richiede la copia integrale cartacea del fascicolo. E questo è l'ostacolo materiale che impedisce al magistrato di chiedere subito l'archiviazione del fotografo indagato oltre 2 anni fa. Questa segreteria, mette nero su bianco il PM a mano, non dispone di sufficiente carta per la copia integrale cartacea del fascicolo, che è composto da 13 faldoni. Non ha abbastanza carte. Avete ascoltato l'articolo L'assoluzione negata perché manca la carta di Luigi Ferrarella, pubblicato sul Corriere della Sera di lunedì 13 dicembre. Il microcredito è una forma di finanziamento pensato per i cittadini più poveri dei paesi più poveri. Dalle favelas brasiliane ai villaggi dell'Africa, uomini e donne possono, indebitandosi di pochi euro, iniziare un'attività commerciale o fare fronte a emergenze sanitarie restituendo il debito settimanalmente, ma con tassi di interesse che per alcuni politici sono troppo simili all'usura. Il microcredito sfrutta la povera gente o la aiuta? Forse la verità sta nel mezzo. Il nuovo slogan negli affari sembra essere andare bene facendo del bene. In altre parole, intraprendere attività socialmente responsabili aiuta ad incentivare i profitti. Il microcredito è diventato uno strumento prediletto per i sostenitori dello sviluppo. I vantaggi del microcredito rischiano di essere eccessivamente pubblicizzati, ciononostante sono reali. Uno dei problemi spesso riscontrati dai poveri quando accumulano risparmi è l'impossibilità di accedere facilmente a conti correnti dove poter depositare il proprio denaro. Contraendo un prestito da un microcreditore per acquistare il bene necessario e poi effettuando regolari pagamenti settimanali con le proprie entrate, la casalinga si indebita per risparmiare e così non avrà più denaro di riserva da far spendere ad altri. In India, un'ampia fetta di tasse universitarie viene pagata all'inizio dell'anno. Le famiglie, i cui componenti hanno lavori stabili, contraggono prestiti dai microcreditori per pagare le tasse e poi passano il resto dell'anno a ripagare tale prestito. Altrettanto importanti sono i prestiti di emergenza. Quando i figli si ammalano, i genitori non hanno il tempo di richiedere un prestito presso una banca pubblica. Solitamente la banca ha bisogno di mesi per gestire la pratica. Il microcreditore, certo di essere ripagato, è incline ad estendere il prestito di emergenza in modo rapido e senza troppa burocrazia. Infine, se da un lato sono scettico sul fatto che il microcredito da solo possa promuovere un alto livello di imprenditorialità, dall'altro tale strumento può certamente essere d'aiuto per consentire a un allevatore di acquistare più bestiame o un trattore, o permettere a un negoziante del villaggio di ampliare le proprie scorte di merci. Di conseguenza, consente anche di incrementare le entrate. Tuttavia, malgrado tali vantaggi, i politici non sono generalmente propensi ad accettare che i soldi possano essere guadagnati in modo onesto da coloro che sono in fondo alla piramide dei redditi. Se i microcreditori stanno guadagnando sulle spalle dei poveri, deve esserci sicuramente qualcosa sotto. I sospetti trovano ulteriore conferma nel generale paternalismo dei politici. I poveri non sanno cosa sia bene per loro, possono essere facilmente ingannati. Naturalmente, il fatto che i microcreditori addebitino alle persone davvero bisognose tassi di interesse elevati esaspera la percezione secondo cui starebbero truffando le parti più vulnerabili della società. Ma i microcreditori potrebbero non avere altra scelta. Considerata l'esigua entità dei prestiti, i costi per la gestione e per la raccolta dei pagamenti sono piuttosto ampi, facendo schizzare verso l'alto il tasso di interesse di equilibrio. L'amministrazione di Andhra Pradesh ha accusato il settore di far pagare tassi di interesse da usuraio. Ad ottobre ha quindi imposto gravi freni al settore. La convinzione diffusa tra i microcreditori è che i freni siano stati imposti non tanto perché il settore era basato sullo sfruttamento, bensì perché offriva un'alternativa al sostegno politico. Mettendo a rischio tale fonte di potere, il settore del microcredito ha creato un autorevole antagonista che ha trovato il momento giusto per sferrare un attacco. La verità probabilmente sta nel mezzo. Il settore del microcredito ha commesso alcuni errori che i politici hanno ingigantito nel tentativo di distruggere un settore che li indebolisce, rendendo i poveri più indipendenti. L'editoriale Il microcredito funziona se trasparente è a firma di Raghuram Rajan ed è pubblicato dal Sole 24 Ore di venerdì 10 dicembre.